Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Io vorrei introdurre la trasmissione con un bellissimo pezzo di una canzone di Lucio Battisti. Ascoltiamola e poi parliamo dell'argomento. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo, è roccia ormai. Che ne sai tu di un campo di grano? Viene da, diciamo, da citare pensando quando mangiamo la pizza, quando mangiamo un panettone, quando mangiamo soprattutto il pane ogni giorno. Cosa sappiamo con quali, diciamo, ingredienti vengono prodotti, diciamo, questi beni che ogni giorno utilizziamo, perché il pane lo utilizziamo quasi tutti i giorni, magari la pizza non così spesso, la pasta sicuramente. Quindi oggi vogliamo parlare di questo argomento, ricorrendo alle farine, parlando delle farine e quali farine troviamo ogni giorno, appunto, nel pane, nella pasta, nella pizza. Cosa ne sappiamo? Ecco, quando si parla di Camut, senatore Cappelli, quinoa, Manitoba, e quando parliamo di senza glutine, insomma, abbiamo una quantità di varietà di cui magari fino a qualche tempo fa ne sentivamo parlare di poche, anzi di pochissime. Ora sempre di più sono, diciamo, apparse alla ribalta, perché molti appunto parlano di questo. E allora faremo un lungo viaggio appunto su questo argomento, e cominciamo con, diciamo, un mugnaio, nel senso di un'azienda, appunto l'azienda Quaglia, che produce da tempo appunto farine, di diverse farine, e diciamo che è diventata abbastanza importante nel settore delle pizze con una farina Petra. E allora cominciamo da Piero Gabrielli, che è il direttore marketing appunto di questa azienda, e vogliamo chiedere, Gabrielli, Petra, si parla sempre di questa Petra, ma che farina è? Cioè da quale grano deriva? Buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, da quale grano deriva? Petra dal settembre del 2012 ha una particolarità che è molto importante, perché nasce da un grano italiano. Come sappiamo, il grano tenero in Italia è un prodotto poco diffuso, perché le coltivazioni si sono enormemente... Senta, possiamo fare un distinguo per i nostri radioascoltatori tra grano tenero e invece semola dura? Beh, il grano tenero è quello che tipicamente viene utilizzato per il pane che si mangia prevalentemente al nord, centro-nord. E il grano duro invece è quello che noi utilizziamo per preparare per esempio la pasta secca come gli spaghetti, o viene utilizzato nei pani particolarmente diffusi nel sud Italia, come per esempio il pane di Altamura, che è molto, molto noto e molto famoso. Si dà anche il pane di Matera, sicuramente quei pani molto belli. Pane di Castelvetrano, sono tre pani importanti, sì. Esatto. Ecco, allora torniamo a Petra. Ecco, le dicevo, il grano tenero è poco diffuso in Italia, per cui l'Italia importa circa il 70% dall'estero. E anche noi, come tutti i molini italiani, maciniamo prevalentemente grani esteri. Per Petra, invece, che è una farina macinata a pietra, abbiamo portato avanti un progetto che è sfociato finalmente nel 2012 nell'avere un certo numero di appezzamenti di terreno nella zona tra Ferrara e Rovigo, dai quali nasce un tipo di grano che è adatto per poter essere utilizzato poi nella panificazione o nella preparazione degli impasti della pizza, o anche nei dolci come il panettone. Perché il grano sostanzialmente deve avere delle caratteristiche di qualità delle proteine e di quantità delle proteine tali da poterlo rendere adatto per poter creare farine che permettano di impastare senza aggiungere nient'altro. Quindi noi seguiamo una via della naturalità, ecco, assoluta. Allora io la fermo ora, perché lei ha detto un dato importante: importiamo il 70%, quindi sì, sicuramente un dato molto rilevante. Abbiamo parlato di pane. Ora sentiamo una radioascoltatrice, devo dire il numero verde 800 24 00 24, che non avevo detto. Silvia da Bergamo, buongiorno Silvia. Buongiorno, grazie per avermi accolto nella sua bella trasmissione. Allora, io volevo fare una considerazione insieme a una domanda. È da qualche tempo che ho smesso di consumare pasta, vabbè, non faccio marche, comunque di grandi marche italiane che incominciano con la A, la B, eccetera. Perché fra varie letture, scambi, informazioni, eccetera, appunto ho scoperto questa caratteristica di questo grano non so se chiamarlo di qualità scadente, ma comunque non buono, forse come il nostro o comunque non nostro italiano. E così mi sono rivolta a una marca in particolare, vabbè, anche qui non so se posso fare nomi, comunque la catena Coop vende della pasta che dichiara di essere 100% grano italiano, in particolare siciliano. Quindi mangio la pasta e poi mi sono buttata sulla pasta integrale che compro nei negozi. Senta Silvia, lei mi ha deviato sulla pasta. Allora, annuncio che sulla pasta farò una trasmissione ad hoc perché lo richiede. E quindi oggi parliamo di farine che riguardano pane, dolci e pizza. La prossima, diciamo, una delle prossime settimane parleremo di pasta perché è un argomento, devo dire, molto rilevante. E quindi faremo una cosa a sé. Però abbiamo parlato di pane, abbiamo parlato di grani, abbiamo parlato appunto di ricerche particolari. Allora io rivolgo a Davide Longoni, che è un panificatore importante, che ora ha aperto anche a Milano un suo negozio e diciamo arriva dalla Brianza, ma ormai è prodotto a Milano. Davide, ma è difficile trovare delle farine, diciamo, importanti, delle farine valide di qualità in Italia? Ciao Davide, buongiorno agli ascoltatori. Difficile? No, basta cercarle. Io conosco tutte le farine dei mulini che parleranno oggi, sono farine ottime con qualità tecnologiche importanti che danno prodotti belli. Però la mia ricerca si è spostata ultimamente verso il rapporto con il contadino, perché non è da dimenticare che il grano è un prodotto agricolo. E quindi sto cercando proprio il rapporto con quegli agricoltori che ancora coltivano con ostinazione la terra, per avere anche varietà antiche di frumento, di grano duro, di farro, di monococco. Ci sono realtà in Italia importanti, tipo la fattoria di Gesù in Sicilia, che nella Valle del Belice, che ha veramente anche del seme importantissima. A me piace anche emozionarmi quando faccio il pane, perché Belice vuol dire l'ombelico, e Sicilia è un po' l'ombelico del Mediterraneo. Da qui passa tutto quello che era la cultura del cereale, che arriva dall'Asia Minore, e da lì si è radicata una cultura del cereale pazzesca. Loro coltivano questo terciasacchi, che di fatto è un farro lungo, una varietà antichissima, che ha un profumo straordinario. Da quando provo queste farine qua, io ho fatto la mia scelta di fare pane agricolo. Davide, volevo chiederti questo: dal punto di vista, diciamo, del costo di produzione, costa molto di più a un panettiere, a un panificatore, ricorrere a questi grani rispetto a grani commerciali, diciamo, che sono sul mercato? Sicuramente i costi circa 3 volte le farine commerciali, diciamo, industriali, che sono intorno ai 50 centesimi al chilo. Io posso pagare il farro 2,80 euro al chilo, tanto per fare dei prezzi, o il monococco anche 3 euro al chilo. È un food cost importante, però mi permette comunque anche di vendere il pane ad un prezzo per me interessante, e il consumatore deve avere un prodotto comunque che fanno in pochi. E quindi questo per me è una nicchia di mercato per me importante, che mi permette di sviluppare anche business su Monza, su Milano e anche con la ristorazione. Ma volevo chiederti questo, quando si mangia, cioè mangiando un pane normale, diciamo, chiamiamolo così, un pane con questi grani molto particolari, si sente molto la differenza sul profumo, sul sapore, sulla digeribilità, su cosa? Allora, soprattutto profumo, sapore e digeribilità, perché i grani moderni danno un buono sviluppo, quindi pani molto soffici e leggeri, però con un profumo poco marcato e poco differente tra i vari tipi di cereali, mentre i grani antichi hanno proprio come se, ad esempio, vino. Se io dovessi produrre vino come un'etichetta generica vino, oppure produrre un Cabernet, un Merlot, un Sangiovese, io posso andare addirittura sulle monovarietà di grani teneri, tipo il Gentilrosso, il Frassineto, per dire grani teneri, oppure grani duri, fare il senatore Cappelli. Si è aperto un mondo veramente importante. Ne parleremo di questo, del senatore Cappelli ne parleremo, e come. Bene, io ringrazio Piero Gabrielli e Davide Longoni, grazie, torneremo fra poco, rimanete con noi, numero verde 800 24 00 24. Il gastronauta. Eccoci di nuovo. Che ne sai tu di un campo di grano? Numero verde 800 24 00 24. Ricevo già moltissimi, diciamo, SMS che chiedono di diverse cose. Sentiamo Lucia da Roma. Buongiorno Lucia. Buongiorno. Io mi sono interessata di farine in seguito, diciamo, a una situazione particolare a livello di salute e ha avuto delle informazioni contrastanti. Mi sente? Sì, la sento benissimo, vado avanti. Le informazioni riguardano la micotossicità, non so se è il termine esatto, cioè tutte le farine che vengono acquistate all'estero dovrebbero avere una soglia massima di micotossicità, la quale cambia però a seconda dello Stato che ha una regolamentazione diversa in questo tipo di valutazione. Volevo chiedere al riguardo, perché moltissima parte, come le diceva, di grano arriva dall'estero e ci sono diversi modi di valutare questo indice. Bene, guardi, diciamo nell'ultima parte della trasmissione avremo un medico che è anche agronomo, quindi rivolgeremo a lui questa domanda perché mi sembra veramente molto ma molto importante. Bene, continuiamo noi questo viaggio, appunto nel campo di grano, come l'abbiamo chiamato, e ora abbiamo un bravissimo pasticcere che è Luigi Biasetto di Padova. Buongiorno Biasetto. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Biasetto, è molto importante per un pasticcere scegliere la farina giusta per il panettone o per altri dolci? Ma la farina scelta darà il risultato migliore, quindi molto spesso anche quando si fanno dei dolci a casa il problema è direttamente collegato alla qualità della farina e alla capacità di saper scegliere la farina adeguata. Ecco, lei come fa a scegliere le farine giuste? Ma noi distinguiamo intanto tra il risultato o il tipo di prodotto che vorremmo produrre, quindi se è un bignè piuttosto che una pasta frolla sceglieremo una farina più ricca di amido e quindi una farina meno ricca di glutine, quindi di proteine, in modo tale che sia meno elastica e dia migliori risultati. Poi per il panettone abbiamo bisogno di una farina che durante tutta la lievitazione, quindi questa lievitazione che globalmente dura più di 42 ore, possa dare il suo contributo nel tenere attivi e vivi i lieviti presenti appunto nel lievito madre. Ho capito, e quindi diciamo che è un impegno, perché bisogna anche provarle continuamente queste farine. Bisogna provarle continuamente, questo in teoria è anche il ruolo del mugnaio che ci deve fornire delle farine che sono quanto più costanti possibili. Dall'altra parte anche la capacità e l'esperienza quindi del panettiere, del pasticcere, di poter, in base al tipo di farina che si ritrova e anche alla maturazione di questa farina, perché noi per fare i panettoni compriamo le farine a ottobre, quindi le teniamo ferme qualche mese per ottenere migliori risultati, no? Quindi tutto questo in realtà appartiene a un sistema che deve garantire a noi artigiani un prodotto che permetta di dare migliori risultati, ma come dicevo è anche nostra sensibilità e quindi competenza poter interagire e quindi aggiungere un po' d'acqua in più piuttosto che modificare i tempi di lievitazione per ottenere migliori risultati. Bene, grazie Luigi Biasetto. Sentiamo Alfredo, un radioascoltatore della provincia di Perugia. Buongiorno Alfredo. Buongiorno. Mi dica. Io volevo sottolineare un aspetto solo riguardante i prodotti integrali, pane integrale, perché io sono un agricoltore biologico, sono stato il primo agricoltore biologico in Umbria dal 1986 e abbiamo sempre fatto, anche attraverso il nostro mulino, macinato il nostro grano e fatta la farina integrale. Volevo sottolineare solo questo aspetto, è fondamentale che nel pane integrale, nella farina integrale, il grano di provenienza sia biologico, altrimenti i diserbanti che sono sulla buccia vengono totalmente poi mangiati dal povero consumatore ignaro. Quindi ecco, fondamentale sempre anche per il pane bianco, ma soprattutto per il pane integrale, che il grano di origine sia biologico per la ragione che ho detto. Bene, mi sembra ovvio, così come è per il vino. Se le uve non sono ottenute da agricoltura biologica è inutile pensare che il vino sia biologico. Ma ora voglio sentire da un importante molino, Dalla Giovanna, che è in provincia di Piacenza, da Pierluigi Dalla Giovanna, appunto come mugnaio, chiamiamo così perché mi piace questa parola, se il grano italiano è in ripresa, si può parlare magari di una riduzione delle nostre importazioni dall'estero, Dalla Giovanna? Ma diciamo così che la produzione che facciamo noi è all'incirca 50% di quello che utilizziamo, quindi dobbiamo per forza andare a prendere roba all'estero. noi cerchiamo di acquistare il meglio. Io, il mio motto è: dove c'è il grano più buono del mondo, noi lo andiamo a prendere. Ma dobbiamo selezionare, dico la verità, tante partite. È un continuo scartare, perché io poi pretendo molto dal mio fornitore, e avere equilibrio sui grani è una cosa molto molto importante, perché il W è un'indicazione, non so, farina da panettoni 350, 400 W, però non è tutto. Stessa farina col medesimo W poi in lavorazione dà un risultato. Senta, spieghiamo ai radioascoltatori cos'è il W o il W, ecco. Il W è praticamente un'analisi che fa uno strumento che si chiama Chopin, che rileva l'area di sviluppo, fa questa macchina, e dà anche delle indicazioni di PL, se vogliamo aggiungere altri dati, cioè il rapporto altezza-lunghezza, questo sarebbe il P su L, e in base al P su L e alla rigidità della farina, allo sviluppo, si creano certe miscele. Queste miscele vengono fatte a seconda dell'utilizzo. Abbiamo un cliente che ha bisogno della farina per il panettone, quello che fa la farina per le ostie, quello che fa per i coni, per i wafer, non so, per i bignè pan di Spagna. Noi utilizziamo, e lei si immagina che abbiamo nel ricettario del computer oltre 300 ricette di farine diverse per ogni utilizzo. Noi siamo un po' pazzi, chiamiamoci così, come mugnai, perché non andiamo a fare cose, chiamiamole di serie, ma cose personalizzate. Andiamo a risolvere tantissime volte il problema dell'artigiano o della piccola media industria, perché noi lavoriamo mediamente con artigiani e piccola media industria, dal pizzaiolo, panettiere, pasticcere. Tutti gli utilizzatori di farine sono potenziali nostri clienti, ecco. Senta, dalla Giovanna, mi è arrivato un SMS che dice: è vero che oggi, anche utilizzando grano di qualità, la macinatura distrugge buona parte dei principi nutrizionali? È vero, macinando intensamente, cioè noi macinamo ad esempio su 21 mm, cioè una macinazione lunga. Molti, per abbassare i costi, per produrre molto, macinano al di sotto dei 10 mm. Praticamente è un po', andiamo a danneggiare amidi e proteine, perché si scaldano, si surriscaldano parecchio. Poi, tra l'altro, vi vorrei dire un'altra cosa, che noi siamo rimasti l'unico mulino che lava il cereale. Quindi, per rispondere a quel signore che macina biologico il suo prodotto, io le dico che noi abbiamo lavagrano, come si faceva una volta non rilasciavano la licenza di macinazione se non c'era la lavagrano. Poi i tempi sono cambiati, dicono che l'acqua costa, in effetti è vero, io ho anche il depuratore per i fanghi, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, si usa un'acqua clorata per abbassare anche le cariche batteriche che potrebbero subentrare, però abbiamo un prodotto che, ad esempio, noi abbiamo fatto una farina che si chiama Triplo Zero, un nome d'arte, Triplo Zero, una farina che ha le ceneri bassissime. E confrontandoci anche con i colleghi dicono: ma tu sei fortunato, hai ancora il lavagrano, perché abbassa ulteriormente le ceneri. Abbiamo scoperto un utensile in più sul discorso della produzione dal grano alla tavola. Bene, la ringrazio dalla Giovanna. Ora, grazie a lei, signor Pazzini, di Radio. Grazie. Ora abbiamo con noi un professore universitario, però che è di chimica, che si esercita molto spesso con il cibo, anzi devo dire ormai mi sembra che sia diventato un grande scrittore di cibo, ma soprattutto sulle bugie. Bene, prima aveva scritto un precedente libro, Le bugie nel carrello, che sta per uscire, diciamo che l'ho avuto in anteprima. Ebbene, ed è Dario Bressanini su questo libro si occupa di due, diciamo, grani. Uno è il Kamut, il grano dei faraoni del Montana, e so che, cioè, leggendo queste pagine dice appunto Bressanini: dalla leggenda delle origini al marchio registrato, la strategia che ha portato al successo una normale varietà di grano orientale. È così, Dario? Sì, ciao Davide. Molti non sanno che Kamut in realtà non è il nome di un cereale, ma in realtà è un marchio registrato. Certo. Sono stati molto bravi a sfruttare questa leggenda, ma è solo una leggenda, appunto, che a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, narra la leggenda, un aviatore americano abbia trovato in questa tomba egizia dei semi e li abbia spediti nel Montana, ecco, e da lì una famiglia che si chiama poi Bob Quinn li ha riscoperti. Bob Quinn è il membro di una famiglia di agricoltori del Montana che negli anni 80 li ha riscoperti in uno scantinato e ha iniziato a coltivarli. Ha registrato il nome, ha avuto un buon successo, però in realtà il grano che si sta coltivando, ecco, non è appunto Camut, è semplicemente un nome di fantasia inventato, è una varietà di quello che si chiama il grano orientale, è un Triticum turgidum nel nome scientifico, ed è un parente molto molto stretto del grano duro. Anzi, qualche genetista che facendo delle analisi ipotizza che sia un incrocio tra il grano duro e un altro tipo di grano. Questa leggenda appunto si è propagata e appunto molti ancora sono convinti che questo sia esattamente il grano che veniva consumato dai faraoni, cosa che in realtà non può essere, perché insomma 4.000 anni non possono sopravvivere dei semi all'interno di una tomba, e tra l'altro pare che all'epoca dei faraoni non si coltivasse lo stesso grano che coltiviamo noi, ma altri tipi di grano, ecco. Bene. Hanno avuto una strategia interessante dal punto di vista del marketing, sicuramente, ma questo ne riparleremo anche sulla trasmissione che faremo sulla pasta. Rimani con noi, Dario. Sì. Sentiamo Paolo dalla provincia di Milano. Buongiorno Paolo. Lei, a tutti i radioascoltatori. Sì. Senta, io volevo un piccolo chiarimento, perché sono stato dal diabetologo e parlavo di pane integrale, no? Perché io mi sono buttato sul pane integrale per il piccolo problema che c'ho, e anche sulla pasta, però lei la pasta ne parlerà più avanti, ho sentito che diceva. Quindi però il pane integrale, lei mi diceva che la diabetologa, che questo pane integrale è inutile, cioè non è che sia così vero integrale, perché i panificatori devono introdurre altri tipi di farine per farlo diventare più commestibile, diciamo così. Sì, ecco. E io lo chiederemo, guardi. Se potete darmi un chiarimento su questa roba qua, perché sennò è inutile che vado a prendere il pane integrale, che a me lo mangio, ma non volentieri come il pane normale. Ecco. Bene, ne parleremo sicuramente. Ora devo passare la linea alla regia. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Prego Dario Bressanini di rimanere con noi, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di farine, a parlare di grano. Bene, abbiamo ancora con noi Dario Bressanini, al quale sempre in questo libro Le bugie nel carrello parla anche del senatore Cappelli. Ebbene, il senatore Cappelli era un senatore della Repubblica che ha permesso delle sperimentazioni a un esperto italiano, Strambelli, che ha poi dato vita a questo grano, senatore Cappelli, di cui se ne parla continuamente. Allora volevo chiedere a Dario Bressanini, tu dici è figlio della genetica questo grano, è così? Sì, in realtà sì, è uno dei tantissimi grani che sono stati introdotti da questo genetista agrario chiamato Nazareno Strambelli, che ha rivoluzionato la coltivazione del grano agli inizi del secolo scorso, solo che è molto poco conosciuto. Lui ebbe l'idea di cominciare a incrociare tantissimi grani, frumenti, sia frumenti teneri sia quelli duri, provenienti da ogni parte del mondo, e contribuì a quello che venne chiamata poi la battaglia del grano. Fu molto avversato proprio per questo. Lui, usando le sue conoscenze ancora rudimentali di genetica, quindi fece vari incroci, cominciò a selezionare grani stranieri e li introdusse in Italia con grande successo, perché erano molto più produttivi. Uno di questi, è un grano duro, fu il senatore Cappelli, cioè lui diede questo nome, come hai detto tu, onorando quel senatore Raffaele Cappelli che gli aveva dato dei terreni su cui fare delle sperimentazioni. È buffo che questo grano, che adesso è tornato di moda, in realtà non è italiano, non è una varietà autoctona italiana, è una varietà tunisina che il genetista appunto Strambelli selezionò e introdusse in Italia, con l'idea poi di cominciare a fare degli ulteriori incroci, ma non ebbe tempo di farla. È curiosa questa cosa, che adesso viene considerato un grano italiano, quando in realtà all'epoca fu proprio avversato anche da molti coltivatori, perché videro i grani autoctoni italiani sostituiti pian piano dai grani di Strambelli, che erano molto più produttivi. Bene, grazie a Dario Bressanini, a presto e buon successo al tuo libro Le bugie nel carrello. Bene, ora andiamo in un altro mulino, andiamo al mulino Grassi di Parma. Buongiorno a Massimo Grassi. Buongiorno, sì. Grassi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo chiederle, come mai in questi ultimi tempi, diciamo, che si è cominciato a dare importanza appunto alla provenienza del grano, si chiamano con il nome appunto Camut, si parla di altri tipi di grano con un nome ben preciso. Un tempo non se ne parlava, secondo lei è stato un passo in avanti, diciamo che la qualità è migliorata, oppure cosa è successo? Ma diciamo che c'è una maggiore un po' a quella che è il marketing dei prodotti della trasformazione, poi del grano e delle farine, quindi in particolare delle paste, del pane, per cui c'è una ricerca di una qualità ben definita che solo la singola varietà riesce a sottolineare. Noi per esempio abbiamo importato il Desert Durum dall'Arizona, dagli Stati Uniti. I migliori grani duri al mondo sono nati per adattarli ai terreni desertici dell'Arizona. 15 anni fa abbiamo preso l'esclusiva della riproduzione del seme per l'Italia e abbiamo portato questa alta qualità, già usata da alcuni marchi top quality nel mondo della pasta, e l'abbiamo resa disponibile anche ai piccoli e medi produttori di pasta e abbiamo creato un mini brand Kronos che è riconosciuto oggi come alta qualità. Ecco, quindi dobbiamo sempre ricorrere all'estero, quindi non c'è speranza per la realtà italiana. Guardi, allora io Il prodotto vegetale italiano, in quanto italiano, non è migliore del prodotto di importazione. Rispondo anche a quella signora che ha fatto un intervento sulle micotossine. Il livello di controllo sui grani di importazione è identico al livello di controllo delle produzioni nazionali. Produzione nazionale è legata al territorio, è legata alla nostra storia della cucina, e quindi è ovvio che ci sono delle mini filiere che danno valore alla nostra cultura, ma non si può pensare di portare al supermercato, cioè sulla grande distribuzione, solo il Made in Italy, perché non ce l'abbiamo. Abbiamo delle eccellenze anche in Italia, abbiamo tutta la storia dei grani di Strampelli, che anche noi stiamo cercando di rivalutare, però si adattano solo ad ambienti particolari, ad agricoltori preparati culturalmente a rinunciare all'agricoltura moderna e alle rendite dell'agricoltura moderna. Sono prodotti di nicchia, sono prodotti cari e quindi resteranno tali. E poi l'Italia ha bisogno di importare, certo, più o meno il 40-50% del proprio fabbisogno, altrimenti non... Non si va avanti, non si mangia. Non si esporta, no, non è che non si mangia, poi non si esporta, pensi a quanta all'industria alimentare italiana che vive di esportazione, certo. Sarebbe tocco pensare solo che il Made in Italy è più bello, non è così, il Made in Italy non è più bello, il Made in Italy è come quello che importiamo dal mondo. Sentiamo Enzo da Como, radioascoltatore, buongiorno Enzo. Buongiorno Davide, buongiorno a lei. Ascolti, volevo segnalare questa cosa. Io per hobby coltivo un po' di cereali, fra cui ovviamente grano, ma proprio per hobby. Ho appena scoperto da un coltivatore in Traversetolo, che è nel Parmese, il cosiddetto grano dei miracoli, che mi dice che è un grano che veniva coltivato in Abruzzo e Molise nel primo dopoguerra. Ora, è un grano alto più di 2 metri, con una spiga almeno di 40 centimetri. Ho provato, me ne sono fatto dare un po', l'ho portato da un mio amico panificatore, abbiamo fatto un po' di pane, e dato che era Pasqua abbiamo fatto anche le colombe, le assicuro una qualità elevatissima. Beh, io credo che non si chiamerà grano dei miracoli, avrà anche un nome diciamo scientifico o altro. Massimo Grassi, che è vicino a lei a Parma, vicino a questo grano del miracolo, ne sa qualcosa, ma Grassi? Sì. Allora, il grano del miracolo è stato riseminato, riportato un pochettino nei campi dopo decenni di abbandono da Grossi, da un agricoltore di Parma appassionato di varietà antiche. Noi collaboriamo con lui bene. Noi siamo il molino del grano del miracolo, insieme ad altre varietà, Virgilio, Marzuolo, Fiorello. Allora, Molino Grassi è, adesso io non voglio parlare, siamo i più grossi trasformatori di grani biologici in Europa. Ecco, le dico subito. Quindi prima conosciamo bene Camut, Farro, eccetera. Grassi, prima una radioascoltatrice da Perugia, un radioascoltatore, non ricordo, ha parlato, dice, ma io mangio il pane integrale, ma e poi è tutto integrale, dall'inizio alla fine, chi è che me lo garantisce? Guardi, forse diceva biologico. Biologico, scusa, biologico, sì, biologico. No, allora, guardi, no, non dovrei dirlo, ma la maggior parte del grano raccolto, al momento del raccolto in cui viene trebbiato, è biologico. Cioè, raramente restano nel grano tracce di diserbanti, di fungicidi, di trattamenti che vengono fatti in campo. Ma il grano è biologico perché ha seguito dei processi culturali diversi da quelli dell'agricoltura tradizionale, perché non ha sporcato la terra, perché non ha sporcato l'acqua, perché comunque i fungicidi e i diserbanti non restano nel grano, ma restano nel terreno, restano nell'ambiente. Quindi l'agricoltura biologica ha valore anche per questo. Per il grano è relativamente semplice fare biologico, però il problema nasce anche nel momento della conservazione successiva, cioè per conservare i grani biologici bisogna avere delle attrezzature particolari per non usare veleni, principi attivi chimici per conservare il grano, perché altrimenti il grano viene attaccato dagli insetti, viene attaccato da alcune famiglie di micotossine. Quindi non è vero che il grano, anche un grano comune, conservato solamente con l'aria fredda, con movimentazioni particolari, mantiene delle caratteristiche simili al biologico. Bene. Non è biologico, certo. Non ha le etichette, non ha fatto tutto il percorso. Certo. Benissimo. Direi di stare tranquilli. Guardate, l'industria alimentare fa degli sforzi enormi per garantire prodotti sicuri e salvi. Bene, grazie a Massimo Grassi. Bene, ora abbiamo parlato di dolci, abbiamo parlato di panettoni, abbiamo parlato di pane. Parliamo di pizza, perché la mangiamo, diciamo che c'è un grosso consumo di pizza in Italia. E abbiamo con noi Walter Rampazzo della pizzeria Pedrocchino. Devo dire a proposito che nel sondaggio sul sito Gastronauta questa pizzeria veneta è, diciamo, è al primo posto, votata dai suoi consumatori, dai suoi commensali, con un distacco enorme, quindi deve avere qualcosa di miracoloso. Forse usa della farina particolare, Rampazzo? Usiamo delle buone farine, farine molto importanti, farine che ci danno una bella, hanno delle buone proprietà a livello di molto importanti, quindi ci permette una lunga lievitazione della pasta, che si parla di 72 ore di riposo, e poi viene messa in cassetta, facciamo le formine, e resta un altro giorno. Quindi, senta Rampazzo, ma lei ha sperimentato varie farine prima di arrivare a una scelta definitiva? Sono nato con una farina, poi ho riprovato altre farine, perché giustamente siamo dei ricercatori di questo, e sono ritornato con la farina che avevo prima. Quindi, senta, usa delle farine biologiche lei o usa delle farine non biologiche? Non biologiche. Comunque, al di là di tutto, stiamo facendo anche una pizza con la farina di grano arso. Quindi state sperimentando sulle farine. Senta, la proposta, diciamo, qualitativa dell'industria molitoria italiana sulle farine, lei come la giudica? Ottima, buona? Ma secondo me è buona, sono delle farine molto importanti, noi ci crediamo al prodotto italiano. Quindi è prodotto made in Italy, ma anche, quindi non è, diciamo, con un nome straniero. Sappiamo giustamente che non tutta la farina è proveniente dal mercato italiano, viene anche estera. Quindi ecco, appunto, le chiedevo questo, cioè l'origine del grano è italiano, quello che usa lei, o è un'origine, diciamo, che arriva dal nostro molito in Italia? È di origine misto. Ho capito. Sappiamo che non tutti i mulini usano la farina nettamente italiana. Beh, certo, su questo l'abbiamo sentito, abbiamo sentito anche qual è il grado di importazione e di percentuale. Rampazzo, guardi che la graduatoria delle pizzerie finirà sul sito Gastronauta fra 6 giorni, quindi sì, faccia votare i suoi guardi, clienti. Noi, perché noi crediamo, siamo contenti dei nostri fedeli clienti che ci votano sempre in continuazione. Bene. Che stiamo raggiungendo comunque. Bene, grazie a Walter Rampazzo. Ora passo la linea alla regia. Ho molti radioascoltatori in linea. Speriamo di sentirli tutti e ritorniamo fra poco. Rimanete con noi. Il Gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di grano, di farine. Bene, abbiamo tanti radioascoltatori in linea. Sentiamo Valerio D'Arieti. Buongiorno Valerio. Buongiorno, io ho la fortuna di essere di Rieti, che è il posto, la zona agricola dove sono nati tutti i grani di cui state parlando, perché qui Strampelli fece i suoi incroci. E sento parlare di Senator Cappelli, di Camut. Purtroppo io lavoro anche in questo campo, in questo momento sono tutte operazioni di marketing, perché il Senator Cappelli sì, è un grano che è venuto da fuori, che Strampelli portò qui, ma lo usò per i suoi incroci, che sì, era genetica pulita, però, perché erano incroci manuali. Lui prendeva il fiore di una varietà e lo incrociava con il fiore di un'altra, e hanno dato grani che oggi magari sono molto produttivi, ma non di grande qualità dal punto di vista proprio delle Bene. proteine. No, la qualità del grano è data dalle proteine, quindi mi sembra che parliamo spesso di tante varietà, tanti nomi, soprattutto a livello commerciale. Beh, certo, ci sono operazioni di marketing, come già Bressanini ci ha spiegato, appunto, di Camut e di Senatore Cappelli. Bene, abbiamo con noi Matteo Giannattasio, che è medico e agronomo e tiene un corso di alimenti e salute del consumatore presso l'Università di Padova. Io voglio subito chiedere al professore Giannattasio questo. Professore, secondo lei i controlli che vengono fatti, diciamo, alle farine che poi diventano pane, diventano dolci, diventano pizze, sono sufficienti a garantire la nostra salute? A quale tipo di controllo si riferisce? Beh, diciamo ai controlli che vengono fatti nei mulini già all'origine, quando arriva il grano, poi dopo, una volta che avviene la molitura, quindi quando entrano in commercio. Sì, no, vengono fatti sicuramente a norma di legge, quindi bisogna dire che sono fatti come si deve, sì. Sì. E quindi tutte queste intolleranze che, diciamo, a cui assistiamo, molte di quelle derivate appunto dalla pasta, dal pane, e ecco, queste si potrebbe avere una barriera prima che arrivino sul mercato? Ma guardi, intanto questi problemi legati alle intolleranze sono un po' legate all'abuso che noi facciamo di questi prodotti a base di grano, perché se lei pensa che la pasta si mangia quasi tutti i giorni, la pizza un giorno sì e un giorno no, e poi tanto pane in più a lievitazione con lievito di birra e non lievitazione naturale, che permette una certa predigestione, è chiaro che ci possono essere casi di intolleranza. L'altro aspetto che sta venendo fuori dagli ultimi lavori scientifici è che con il miglioramento genetico e un po' anche con le concimazioni azotate un po' eccessive, non aumenta la quantità di glutine come normalmente si dice in giro, ma aumentano certe frazioni di glutine, che, tra cui anche l'alfagliadina, che è la frazione che contiene quel peptide che dà la celiachia. Con questo non voglio dire che la celiachia è comparsa con questo, ma secondo alcuni ricercatori l'aumento potrebbe essere anche determinato da questo aumento che si ha sia per il miglioramento genetico che per l'eccessiva concimazione con nitrati. Ecco, rimanga con noi, professore. Sentiamo Patrizia da Brescia, una radioascoltatrice. Buongiorno. Una domanda che vorrei rivolgere al professor Giannattasio, che stavo ascoltando ora. Recentemente mi è stata diagnosticata un'intolleranza ai solfiti, che è una grande disgrazia per la verità. Sì, sì. E fra i 1000 alimenti che li contengono, ho scoperto, sono segnalati la farina bianca e il lievito di birra. Allora, la mia domanda era: Questo è dovuto ad un'aggiunta che si fa per migliorarne la conservazione per quanto riguarda almeno la farina, o è intrinseca alla farina stessa questa presenza di solfiti? I solfiti sono la isoforosa e i derivati, i solfiti sono degli additivi, quindi sono dei conservanti veri e propri, per cui l'anidride solforosa si libera in pochi alimenti, per esempio nel vino c'è una liberazione, ma di norma soprattutto si tratta di semi o nel caso della farina dei derivati dalle cariossidi, che sono dei frutti secchi, in questi casi qui è aggiunto come conservante. Mi meraviglia un po' perché l'anidride solforosa nella farina di norma non si aggiunge, deve essere una farina speciale probabilmente, perché per legge la farina, cioè il prodotto dovuto alla molitura dei chicchi, di norma non è permesso aggiungere l'anidride solforosa, quindi è un prodotto speciale che lei usa. Bene, già diciamo che è caduta la linea con la nostra radioascoltatrice. Sì. Rimanga con noi, professore. Ora abbiamo con noi Fausto Marino, responsabile del controllo qualità del Mulino Marino di Cossano Belbo. Marino, io voglio chiederle questo. Voi macinate a pietra, ma macinate anche normalmente, credo. Quindi volevo chiedere, c'è grande differenza tra queste due macinature e qual è, diciamo, il plus che porta la macinatura a pietra? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì. Beh, io mentre sto parlando con voi sto osservando un campo di grano. Ah, bene. Sì, siamo in controllo qualità anche di sabato mattina. Io ritengo che ci sia una differenza grandissima tra la macinazione classica a cilindri e la macinazione a pietra, che noi come Mulino Marino facciamo con la tecnica della macinazione a pietra naturale, non pietra artificiale. Quando parlo di pietra naturale parlo di quelle pietre di origine praticamente di cave di montagna che devono ancora essere martellate, rabbigliate, il gergo tecnico, da mio zio e da mio nonno, per creare la miglior farina possibile. Questo è anche un sinonimo di biodiversità, perché tutti i cereali non vanno trattati e quindi macinati nella stessa maniera, ma parliamo di grano duro che deve essere macinato in una certa maniera, grano tenero che deve essere macinato in un'altra maniera e così via. Quindi una tecnica che viene adottata singolarmente con la pietra naturale a seconda del cereale che andiamo a macinare. Quindi dipende dal cereale, insomma, quindi non è un fatto così, come posso dire, ormai che fa più notizia, diciamo, fa più appeal la macinatura a pietra. Bene. La macinatura a pietra è molto importante, la pietra naturale, perché tramite l'artigianalità di andare a macinare con questa pietra naturale noi cerchiamo di ottenere il meglio senza togliere, senza aggiungere nulla dal chicco di grano di cereale, e ottenere la miglior farina possibile. Questo è quello che facciamo dal 1956. Bene, Aldo da Roma, che è un radioascoltatore, gli rispondo io. Purtroppo i nostri interlocutori che hanno parlato di grano dei miracoli non sono più raggiungibili, per cui non posso farle sapere il nome scientifico che io avevo chiesto, ma mi spiace, non ho avuto risposta. Sentiamo Fabio da Prato. Buongiorno Fabio. Sì, buongiorno, complimenti per il gastronauta. No, io a Prato abbiamo un tipo di pane che è la bozza pratese, che è un pane, in Toscana c'è molto pane sciocco, cioè non salato. Io volevo sapere invece rispetto ad altri tipi di pane che esistono in Italia, sono sempre pani artigianali o pani di una tradizione culturale ormai... Sì, beh, Altamura e gli altri, certo. Esatto, sono invece aggiunti di sale. Volevo sapere se c'erano differenze nella qualità dell'alimentazione, se uno mangia il pane salato rispetto al pane non salato. Giannatasio, lei può rispondere a questa domanda? Sì, intanto volevo fare una precisazione per quanto diceva il signore del mulino. In effetti con la macina a pietra si ottiene una vera farina integrale, mentre invece con il mulino a cilindri bisogna ricostituirla poi la farina integrale e quindi rimettere insieme la parte di crusca con la farina bianca che viene fuori alla fine del procedimento. Per quanto riguarda questo aspetto, questi pani che voi avete nominati sono a lievitazione naturale, e cioè fatte con la pasta madre piuttosto che con il lievito di birra. Il troppo sale non credo che sia un fatto positivo, anche perché ammazza il gusto del pane. Un pane fatto con forno a legna esalta tanti gusti e forse un troppo sale li ammazza questi gusti. Quindi è un fatto di carattere diciamo, organolettico, ma c'è anche un problema di salute, perché il pane sciapito, essendo senza sale, diciamo, è indicato un po' per tutti, mentre un pane troppo salato potrebbe dare qualche problema. Il Ministero della Sanità recentemente ha emanato una direttiva, una circolare proponendo appunto ai fornai di ridurre la quantità di sale, perché si è resi conto che, a parte il pane sciapito del sciapo della Toscana, e gli altri pani si fanno notare per un'eccessiva quantità di sale. Bene, grazie. Quindi, sentiamo Manuela dalla provincia di Lecco, brevissima perché ho pochissimo tempo. Manuela. Sì, brevissima. Volevo chiedere solo un'informazione. Se la pizza indigeribile potrebbe essere motivo di farina di poca qualità o cattiva lievitazione, o cioè, se una farina, una pizza che fa male, che rimane indigesta, è sicuramente un problema di farina o di lievitazione. Beh, io credo che soprattutto sia un problema di lievitazione, però lo chiedo a Fausto Marino, magari che sia magari un mangiatore di pizza. Marino. Assolutamente sì, la pizza è uno dei miei alimenti preferiti. Diciamo che questi problemi di indigeribilità sui prodotti lievitati come la pizza possono essere dovuti sia a un discorso sia di lievitazione, ma anche all'utilizzo di farine, diciamo così, con additivazioni estreme, che poi non possono essere, diciamo così, fatte riposare, fatte maturare, fatte lievitare per il tempo di cui necessita. Quindi bisogna che ci sia sempre un discorso di tracciabilità e di stretto contatto tra il contadino, il mugnaio e il produttore finale, per sapere come lavorare al meglio il prodotto che viene fornito. Bene. Le lievitazioni lunghe o corte si possono fare entrambe, ecco. Bene. Basta avere il prodotto giusto. Grazie a Fausto Marino, grazie al professor Giannattasio. Non riesco a far intervenire Luciano da Ferrara e Ernesto dalla provincia di Ascoli Piceno, perché stiamo chiudendo. Bene, io prima di chiudere vorrei ricordare, visto che già in passate trasmissioni, anche oggi, mi sono arrivati diversi sms che lamentano ormai non esistere più la pillola delle 11 del mattino, delle 23 della sera, che facevo come pillola del gastronauta. Devo dire che diciamo, viene spostata alla domenica all'interno del riposo del guerriero, quindi alle 11:30 circa, in cui compendio, diciamo, le quattro pillole. Sì, vedo che molti sono dispiaciuti, ma non ci posso fare assolutamente niente. Quindi chiudiamo questa trasmissione fatta da... Ma vorrei chiuderla con Battisti. Sei tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura. Bene, grazie, arrivederci a tutti, alla prossima settimana.